gabbia mia, nella gabbia mia. È un secolo molto ricco e che ha delle caratteristiche individuali al di là delle superstizioni del calendario. Non è finito perché... Quando la storia arriva, ecco la storia di un bastardo qualunque. Portami il tuo miele, portami il tuo miele. Dov'è la libertà? Dov'è l'uguaglianza? Dov'è la fraternità? Che mi colpisce adesso è il fatto che il tempo è passato, tanto tempo è passato, da quando io ho cominciato a lavorare appunto, e che ci sono dei giovani che trovano in me un interlocutore possibile, in un mondo in cui i giovani sono giustamente... genitori, non si fidano più del prete, non si fidano più del professore, finiscono di essere spediti più o meno rapidamente da uno psichiatra per ogni disagio che abbiano, lo psicanalista, qualcosa del genere, beh, insomma, di chi scappano evidentemente. Invece, devo dire, con me, io riesco a parlare con loro e vedo questi interessati, certe volte dico, ma insomma, scusate, ma perché andarvi a divertire, state qui a conversare con me? E scoprono che loro sono pieni di domande, problemi, eccetera. Ho passato proprio... Professor Sanguinetti? La settimana scorsa dal San Mignano, professore? Un corso... professore, a proposito di domande, già che ci siamo, io ne avrei una se posso chiederle, sì... Sì, se non so, gli ascoltatori a casa o il DJ non ne hanno altre, insomma, la faccio io. Una domanda ce l'avrei. C'è una sua poesia, professore, che io ho sempre capito un po' poco. Sì, è una poesia che dice più o meno che per fare una poesia, per... Ah, eccola, ce l'ho. Per preparare una poesia si prende un piccolo fatto vero, possibilmente fresco di giornata. Professore, è che questa sembra una ricetta di cucina. La poesia è una cosa seria, insomma, se non lo sa lei. Cos'è che vuol dire questa storia di che si prende un piccolo... Professore? Professore? Ma non... Professore, mi sente? Andando, ma questo... quando ti servono non ci stanno... Professore! Io me l'ho portato pure tutto l'occorrente, perché... no, perché per capirlo io me l'ho portato pure da cucinare, cioè ero qui che volevo proprio fare una poesia, come dice Sanguinetti, solo che se non so... per preparare una poesia come... Vabbè, sapete che... facciamo così, che se non c'è lui ci penso io, allora vorrà dire che faccio Sanguinetti e mi preparo una poesia, okay. Se poi a voi lì a casa va di preparare una poesia con me, insomma, con noi, perché c'è chi mi dovrà coadiuvare, ecco, allora vediamo se questo piccolo teorema è vero, cioè se fare una poesia è un po' come cucinare un piatto, ecco, vediamo un po', partiamo dalla poesia del professore che così scortesemente si è eclissato, ecco. Per preparare una poesia, dice Sanguinetti. Per preparare una poesia si prende un piccolo fatto vero, possibilmente fresco di giornata. Voilà, un ovetto. Sì, quasi fresco di giornata. C'è una ricetta simile in Stendhal, lo so, ma infine ha un suo sapore assai diverso e dovrei perderci un'ora almeno adesso qui a cercare le opportune citazioni. Beh, francamente non ne ho voglia. Conviene curare spazio e tempo, una data precisa. Ecco, DJ Federico, che giorno è oggi? Martedì 20 luglio. Oh, perfetto. Un luogo scrupolosamente definito. Cioè, dove siamo qui, Federico? Siamo a Radio Onda Rossa. Oh, perfetto. Sono gli ingredienti più desiderabili questi nel caso, eh? Item per i personaggi, da designarsi rispettando l'anagrafe. Giochiamo. Io sono Edoardo Sanguinetti. Piacere. Lei? Federico. Facciamo a Pasolini, via, così andiamo Pasolini, in maschera. Ecco, se Pasolini, da identificarsi mediante tratti obiettivamente riconoscibili. Ho fatto il nome di Stendhal, ma per lo stile niente Napoleone oggi, niente codice civile dunque, naturalmente. Si può pensare piuttosto a Gramsci. Gramsci dei quaderni, delle lettere, ma condito in una salsa un po' piccante. Di quelle che si trovano volendo qua, in cucina, presso il giovane Marx. E avremo una pietanza gustosamente commestibile, una specialità verificabile, verificabile dico signori, nel senso che la parola può avere imbrecht, mi pare in certi appunti dell'Arbeit Journal, e quanto l'effetto wow, oh, c'è lo straniamento, quello ci vuole, ma lo si ottiene con mezzi modestissimi, come qui appunto, con un pizzico di artusi e carnicina. E concludo che la poesia consiste, insomma, in questa specie di lavoro, mettere parole come in corsivo, tra virgolette, e sforzarsi di farle memorabili, come tante battute argute, brevi, che ti si stampano in testa così, tan tan tan, con un qualche contorno di adeguati segnali socializzati, come sono gli a capo, le allitterazioni, poniamo le solite metafore, che vengono a significare poi nell'insieme, attento, oh, tu che leggi, e manda a mente. E questa era la poesia. Piccolo fatto, beh, c'ha il suo fascino, insomma, la ricetta del professore c'ha il suo fascino, sì, sì. Soltanto, ecco, proviamo a farla più grossa, via. Io tutto, qui l'ho corrente del cucinare, ce l'ho, insomma, una bella pentola con l'acqua, un po' di sì, un po' di ortaggioni, sì, qualcosa si può fare. Però proviamo a farla più grossa, sì, invece che solo la poesia, costruiamo una poesia però intera che ci riguardi tutti, noi che siamo qua e voi che siete a casa, insomma, tutti noi, sì, una cosa che ci coinvolga tutti quanti. Facciamo sta prova per vedere se è vero quello che dice Sanguinetti. Una cosa che ci coinvolga tutti, tipo... Ho il terrore, Federico, non mi dire niente. Tipo la storia di questo paese. Se la restringiamo un po' alla storia più recente di questo paese. In particolare la storia repubblicana di questo paese. Sì, la storia della Repubblica Italiana. Sì, beh, che c'ha un inizio. Sì, quale inizio può aver qui? Se entriamo nella terra del poco condiviso. Sì, ecco, l'inizio. L'inizio è quella cosa senza la quale non staremmo qua tutti quanti, che ci riguarda tutti e che dall'inizio alla nostra storia recente nazionale è senz'altro la liberazione! È la liberazione! La liberazione, sì, sì, la liberazione! Buchi, buchi, balli americani! E il 1945 l'Italia si riempie di cioccolate, chewing gum, soldati che vengono da lontano, il jazz ce lo possiamo ascoltare anche noi che non contiamo niente, mentre invece prima se lo ascoltava soltanto chi sappiamo noi. Sì, sì, liberi! Siamo liberi finalmente, siamo liberi! Ah, che meraviglia! E costruiamoci allora questa poesia vera adesso. Via, via, via. Federico, pelati una patata tu. Bravo. Io sono qua che mi pelo una carotina. Siamo liberi! Liberi tutti quanti! Liberi, liberi, liberi! La liberazione, 1945, liberazione. Beh, poi, per me, la liberazione, Sanguinetti intendo me, ha anche un significato un po' più personale, nel senso che è legata proprio a una persona che mi ha cambiato la vita. E questa persona si chiamava Fedele. Fedele. Fedele era un ragazzo che io conobbi quando, negli anni della guerra, eccoli, quelli del Boogie Woogie. Io andavo a giocare, come tutti quanti i ragazzi del mio quartiere, su un viale. Io allora, nel 1940, avevo 10 anni. E giocavo su questo viale di casa mia, abitavo allora a Torino, in quello che oggi si chiama Viale Matteotti, ma che allora si chiamava Corso Oporto. E un giorno comparve su questo nostro viale un tale che non apparteneva al quartiere, che aveva pure qualche anno in più di noi, sì, poteva averne 14 o 15, e soprattutto era un operaio. Passando di lì, non so dove andasse né per quale occasione arrivasse da quelle parti, ecco che questo a un bel momento si ferma, dà un calcio al pallone col quale stavamo giocando noi e via che si comincia a giocare tutti assieme, a chiacchierare con questa piccola banda di ragazzi che eravamo tutti. Ora, io credo che per tutti quanti gli altri che erano con me questo incontro non sia stato tanto significativo, mentre invece lo fu per me, lo fu moltissimo, perché per me Fedele fu la rivelazione che esistevano delle persone al mondo, al cui mondo io proprio non partecipavo in nessuna maniera. Fedele non era in nessun modo un borghese, come ero io, e tutti i miei piccoli amici. No, era un operaio, anche se compariva lì nelle vesti di un giovanotto che viene a divertirsi en passant con altri giovanotti come lui, che sono lì ad intrattenersi. Fu una rivelazione mica perché non li avessi mai visti, proletari, lavoratori del mondo, insomma, in vita mia. No, un idraulico sarà anche venuto a casa, sì, ma è che l'avevo visto sempre nell'esercizio delle sue funzioni. Da questo a capire che nella vita d'ogni giorno era come se appartenesse ad un'altra razza rispetto alla mia, se ce ne correva. Per esempio, Fedele non era religioso, per niente. Ma quando dico che non era religioso, mica intendo dire che fosse indifferente alle pratiche religiose. No, no, era proprio miscredente. Un miscredente tranquillo, eh. E poi aveva tutta una sua idea della sessualità, del maschile, del femminile, di cose di questo genere, alla quale io proprio non partecipavo assolutamente. Un po' perché a 10 anni ero, come dire, al di qua di una quantità di esperienze concrete. Ma poi perché di queste cose avevo un'idea fantastica. Come si conviene a uno che ha 10 anni, ma è anche investito da un certo tipo di educazione, borghese, appunto. Insomma, Fedele fu per me la scoperta di un altro pianeta. Tornò qualche volta dal nostro viale per parlare con me, perché gli piaceva evidentemente questo colloquio. Perché probabilmente con me anche lui scopriva una figura di un'altra specie. Era sempre interessata a capire perché io pensavo le cose che pensavo, perché mi comportavo in certi modi piuttosto che in altri, e soprattutto io nello stesso momento ero impegnato a capire le stesse cose in lui eppure in me. Da allora l'ho completamente perduto, anche se c'è stato un incontro, l'ultimo tra noi, decisamente importante anche se breve, il giorno della liberazione di Torino. Quel giorno i partigiani scesero in città e... io abitavo proprio di fronte all'angolo di Corso Porto, dove c'era il comando delle SS naziste, che tentarono quel giorno di scappare, ma vennero intercettate poco fuori dalla città dai partigiani che stavano entrando. Fedele era lì, col suo fazzoletto rosso da partigiano al collo e con un mitra in mano. Questo integrò definitivamente dentro di me l'immagine che avevo di lui. Dunque io non sono nato politicizzato, anche se certo gli eventi di quegli anni mica mi potevano lasciare indifferente. Federico, la patata, grazie. Mamma mia, Federico. Cioè, guarda, come te l'ho data, mi ritorna, incredibile, se niente. Opposizione alla pelatura, Non sono nato laico né marxista. Avevo ricevuto l'educazione di una tradizionale famiglia della media borghesia. E quindi allontanarmi da tutto questo, aspettate che accendo l'acqua, ecco qua. Allontanarmi da tutto questo significava una conquista, significava ricostruirmi da solo, come quando abbandoni il gusto scolastico in fatto di libri, di musica. Per quelli della mia generazione, che nel 45 avevano 14-15 anni, non ci fu infatti un doppio tempo, quello dell'euforia per la liberazione e poi della disillusione per la ricostruzione dopo, no. Ci fu un unico tempo unitario in cui tutti quelli come me erano impegnati a trovare i mezzi per sconvolgere l'ordine delle cose. In nome di una prepotente volontà di disordine che ci coinvolgeva tutti, sì, perché dovete pensare che il dopoguerra nel 45 significasse proprio uscire da una prigione, ma con la consapevolezza che se ne stava uscendo, significava abbandonare per sempre l'istituzione scolastica fascista, la propaganda di regime, cose che io avevo sofferto sulla mia pelle pur avendo avuto la fortuna di crescere in una famiglia che non era favorevole al regime. Ecco, il dopoguerra arrivava ad abbattere per sempre le mura carcerarie dentro delle quali tante di noi avevano vissuto tutta la loro esistenza. E si apriva la strada ad un mondo nuovo, diverso da un punto di vista civile, psicologico, culturale. È allora, per esempio, che per l'ultima volta, forse, tutte le tradizioni pacifiste di questo paese sono riuscite ad incontrarsi, in netta e lucida opposizione stavolta, a quella che nel nostro secolo per eccellenza era stata l'ideologia della guerra. Dell'Assemblea Costituente è sempre una data storica. È un evento eccezionale per tempi eccezionali. E lo è in modo particolare per l'Italia che esce dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. E si tratta di dare nuove basi, basi democratiche, allo Stato italiano. La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. E gli italiani hanno scelto. La Costituente, il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato. La Costituzione. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Lavorare! Con le due mani nati a lavorare, nati con i due piedi a camminare. Con lavorare si va per salire, per una scala che va a proseguire. Questa è una scala che sale a spirale e che qui ci significa la vita. Quando ci sali, t'è già cominciata. Quando finisci, non è mai finita. E prima i padri, poi salgono i figli, che così vanno le generazioni. Questa scala significa la storia, che chi è passato resta per memoria. Se te la guardi come fosse ruota, vedi che gira come la fortuna, che ti trascina come vecchia giostra, che fa le fasi come fa la luna. Ma la luna sparisce e poi ritorna. Te la tua giostra ti fa un solo giro, che se ti guardi la tua vita sola ci vedi il primo e l'ultimo respiro. Se poi la guardi come fosse torre, vedi Babele, che fu confusione, fu in Babilonia dove si confusero tutte le lingue in tutte le persone, ma quella torre si sognava il cielo. Te la tua torre qui in terra ti tiene, che se ti guardi lì muscoli, ossa, un grattacielo, ci vedi una fossa. Ma questa, che è la vita, sale a vite, che come sta un martello ci sta dura e ci sta curva come sta una falce, ma che ci trovi lì la tua ventura. Per questa scala ci trovi i compagni. Salire insieme, insieme lavorare, così sta scritto in qualunque scrittura. Chi non lavora, niente da mangiare. Con le due mani nati a lavorare, nati con i due piedi a camminare, con tutto il corpo nati qui a sudare, e ancora nati a ruscare, a sgobbare, e nati a faticare e a travagliare. Per questa scala ci impari a lottare e fare fine a tutto il dominare, e te, con tutti gli altri, alla fine liberare. Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre maltrattato fino all'ultimo momento. Saluteremo il signor padrone con la sua risera netta, pochi soldi in la cassetta ed i debiti a pagare. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantufi, di risaia siamo stufi, di risaia siamo stufi. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantufi, che di risaia siamo stufi. Casa nostra vogliamo andare. La televisione! Sì, perché sono gli anni 50. E arriva la televisione anche in Italia. Siamo come gli americani. Sì, sì, finalmente serate attorno a questo nuovo focolare. Che ci sarà stasera in televisione? Che ci sarà? Tanto un po' di sale all'acqua. Ah, questo è bello, eh? Il musichiere! Il musichiere! Domenica è sempre domenica. Sapete, quando Gramsci parlava dell'intellettuale organico, vedo gente a casa che rabbrividisce. Tranquilli, pensava all'avvocato, pensava al farmacista, pensava alla provincia italiana del suo tempo e a come ci nascevano e si diffondevano le opinioni. Ecco, quella funzione oggi per noi è svolta dai personaggi televisivi. Infatti è tutto un dire, l'ho visto in televisione, l'ha detto la televisione, è apparso come la Madonna in televisione. Ma questo però va a investire davvero tutto, dal modo di camminare a quello di vestire, di parlare, di pensare. E soprattutto crea la valutazione dei personaggi sulla base dell'immagine. Non è un caso che l'immagine oggi sia diventata proprio il centro della nostra riflessione culturale, dove però per immagine si finisce, ahi noi, per intendere sempre l'antitesi della sostanza reale. Eccoci qua! La reale sostanza della pubblicità! Carosello, carosello! Ma chi non se li ricorda i caroselli? Senti che meraviglia! I bambini a letto dopo Carosello, eh? Facciamo scherzi? Non sbaglia mai! Non è esatto! Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina lì. E la difesa è Cinar, l'aperitivo a base di caciocco. Che meraviglia! Bevete anche voi Cinar e bevetelo così, 40 grammi di Cinar, una buccia di arancia o di limone, una spruzzata di Seltz ben ghiacciato. Ecco il vostro Cinar. Contro il logorio della vita moderna. Sei già mia, chiudi il gas e vieni via. Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e al baffo che conquista. L'avete visti questi? Amore, quell'uomo sommi. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Paulis. Amore mio. Toglieteci pure il necessario se vi pare, ma per carità lasciateci almeno il superfluo. Oh, e questo è un motto delizioso, è delizioso, lo devo riconoscere. Beh, certo, bisogna anche ammettere che è un po' un motto che uno per poterselo pronunciare deve possedere sia il necessario che il superfluo. Ed è anche vera un'altra cosa, che questo superfluo che si vuole assolutamente salvare, anzi necessariamente salvare, anche a prezzo del veramente necessario, è per chi parla ciò che è veramente necessario. Insomma, siamo di fronte a uno spiacevole equivoco verbale. Elegante, ma insomma un qui pro quo un po' colpevole, chiarito il quale una cosa rimane assolutamente chiara, cioè che quello che è veramente necessario, buona la carota, carota è necessaria, è veramente necessario, mentre invece ciò che è superfluo resta sempre davvero superfluo. Oddio, piange il bambino, eh sì, perché giù al tavolo abbiamo anche un bambino qui in studio. Oh, porca miseria, piangi, piangi, che ti compro una lunga spada blu di plastica, eh? Un frigorifero Bosch in miniatura, un salvadanaio di terracotta, un quaderno con 13 righe, un'azione della Montecatini, eh? Oggi piangi, piangi, e che ti compro? Ti compro una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, un robot, un catechismo con le illustrazioni a colori, una carta geografica con tante bandierine vittoriose. Piangi, piangi, che ti compro? Un grosso quadoglio di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata con la gamba di legno, un bel coltello a serramanico, una bella scheggia e una bella bomba a mano. Se piangi, piangi, che ti comprerò tanti francobolli dell'Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di moro, tante teste di morto, tante teste di... Amor, ridi, eh. Ridi, ridi. Ridi che ti comprerò un fratellino, eh? Che così tu lo chiami per nome. Che così tu lo chiami Michele. Ti piace Michele? Eh? Gli anni 60. Gli anni della rinascita. Che anni quegli anni? In quegli anni in Italia si aveva la sensazione di aver lasciato per sempre la guerra alle spalle. Eh sì, si erano rimosse le macerie, si era ricostruita e modernizzata la società. Eh sì, no, non è un caso che proprio in quegli anni l'Italia abbia conquistato tante delle cose che significavano la modernità. Eh beh, allora che il paese si è popolato di lavatrici, di autostrade, di macchine, di pubblicità. Sono nati problemi del tempo libero per una società di contadini come la nostra che non l'aveva mai conosciuti. Quel fenomeno che si chiamava americanizzazione e che, per carità, aveva anche delle forme, come dire, un po' perverse, fu la nostra modernizzazione. Negli anni 60 in Italia si è manifestato per l'ultima volta un grande sentimento collettivo che riguardava tutti ed esprimeva il desiderio della modernità, il bisogno del nuovo e il bisogno del diverso, la voglia di lasciarsi finalmente alle spalle questo passato sentito come fortemente negativo, con la speranza però questa volta di riuscire veramente ad andare oltre. Ecco, in questo momento l'annuncio. Ammazza, tanto oltre però. Sta uscendo, il primo uomo sta uscendo dal veicolo lunare. 1969. Le 4:51 del 21 luglio 1969. Sta provando, sta dicendo di Armstrong al centro di sto provando. Tra poco l'impronta di Armstrong resterà la superficie telemica, un'impronta che secondo gli scienziati potrebbe rimanere per 1 milione d'anni. Sì, deve aver appoggiato. Ha toccato. Sì, ormai è decisamente sul suolo. Vincenzina davanti alla fabbrica, Vincenzina il foulard non si mette più, una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e là la fatica che dentro la 0-0 anche ieri sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi segna più, che tristezza il padrone non c'ha, manco sti problemi qua. Vincenzina davanti alla fabbrica, Vincenzina vuol bene alla fabbrica, ma non sa che la vita giù in fabbrica non c'è, o se c'è com'è. In quegli anni, gli anni 60, la città industriale, la città borghese, moderna, si andava sempre più dimostrando tentacolare, spettacolare com'era, come l'emblema di uno spazio concretamente ostile e radicalmente insensibile. Ecco, io chiederei adesso a Federico di leggerci un primo contributo, grazie. Prego, prego. Pierpaolo Pasolini, La scomparsa delle lucciole. Poiché sono uno scrittore e scrivo in polemica, o almeno discuto con altri scrittori, mi si lasci dare una definizione di carattere poetico-letterario di quel fenomeno che è successo in Italia una decina d'anni fa. Ciò servirà a semplificare e ad abbreviare il nostro discorso, e probabilmente a capirlo anche meglio. Nei primi anni 60, a causa dell'inquinamento dell'aria e, soprattutto, in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti, sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. Sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato. E un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta. Quel qualcosa è accaduto una decina d'anni fa, che è accaduto una decina d'anni fa, lo chiamerò dunque scomparsa delle lucciole. Ma caspita, complimenti Pasolini, Federico. Bene, bene, bella voce da... Beh, del resto. È difficile dare di Pierpaolo Pasolini un giudizio riassuntivo. E questo perché nel corso degli anni attraversò egli stesso diverse posizioni. Sicuramente una personalità che ha avuto un notevolissimo significato per la letteratura, ma anche per la storia del costume di questo paese. Credo che le ambiguità e le oscillazioni che erano proprie di Pasolini, che egli stesso esibiva in pubblico e di cui esibiva anche tutto il carico di sofferenza e di disagio, fossero ambiguità e oscillazioni non proprie di lui soltanto, ma di tutti quanti quelli che, come lui, erano sedotti nello stesso tempo da tentazioni radicali, cattoliche, marxiste. Tenere insieme anime così diverse è difficile, a meno di non cementarle con un piglio molto passionale, molto oratorio. E difatti in Pasolini c'era un fortissimo narcisismo esterizzante. Si presentava sempre come il poeta con la P maiuscola, come una specie di Vate nuovo d'Annunziano, ma comunque per sbrigarcela alla svelta, con un'allegoria cotta e mangiata, appunto. Pasolini era il poeta che liricamente si disperava per la scomparsa delle lucciole, quando per giunta le lucciole non sono e non erano scomparse affatto. Ciò che voglio dire è questo, che credo che il mondo, anche così com'è, brutto, sporco, cattivo, ingiusto come oggi, sia comunque abbastanza maturo per capire una buona volta che l'industrializzazione, ahi noi, è l'età adulta della storia e che nessun ritorno al grembo materno c'è ormai più possibile, a meno di non sprofondare di nuovo nella immonda notte del fascismo. Ma crescere, si sa, è cosa durissima. E così l'umanità è messa di fronte anche alla necessità di apprendere una verità tutta difficile, che è la seguente: la maturità, che è tutto nella vita, non è un divertimento e non è neppure una poesia. La sentite anche voi, no? Satisfaction. Anni 60. Questo era uno dei manifesti. Del rock degli anni della contestazione. Eh sì, siamo al 67-68, agli anni della contestazione giovanile. Se si guardano i video dell'epoca, si rischia di vedere in Eskimo e in Fuga, inseguiti dalla polizia, personalità italiane come Giampiero Mughini, Giuliano Ferrara, Liguori. Beh, la contestazione del 68 non fu secondo me una vera rivoluzione, fu soltanto una rivolta. A me nel suo complesso quel movimento non piacque molto, perché mi sembrava egemonizzato dai giovanotti della buona borghesia. Difatti, alla testa del movimento studentesco mica c'erano dei veri studenti rappresentativi dell'università di massa. C'erano studenti che manifestavano il loro disagio a vedere se stessi massificati con gli altri. Ma comunque, sorvolando e prendendola come dice Marx, che dice che a volte gli uomini fanno la storia anche se non lo sanno, beh, è evidente che il 68 sia stato uno di questi momenti qui. Sì, perché va riconosciuto al 68 di essere stata quella esplosione deflagrante che ha finalmente portato alla luce tutto quanto il disagio, il carico di tensione che si era accumulato nei rapporti padre-figli, nelle università, nella collocazione di partiti e sindacati, ovunque nella società italiana e non solo. La conseguenza forte del 68 è stata culturale. Finalmente si è laicizzata la nostra società, sono venuti meno tanti vincoli, tabù, rituali, dogmi. Il 68, insomma, ha messo tutto in discussione, caoticamente ma proficuamente. Perché insisto a dire questo? Perché non sono tra quelli che sono convinti che il vero figlio del 68 sia stato il terrorismo degli anni di piombo. C'erano dei germi ben presenti, ma il terrorismo non è nato né il 68 né dal 68. Era la sua potenzialità più pericolosa. E la cosa grave fu che questa potenzialità ebbe modo di svilupparsi in un clima selvaggiamente, inquietantemente riportato a un costante appello alla violenza, da una parte e dall'altra. Una violenza che comunque era sempre piccolo borghese, fascisteggiante, mai una vera violenza anarchica. E difatti il pericolo che io sentivo forte per l'Italia di quegli anni era quello di uno scivolamento neofascista. In un fascismo nuovo, diverso da quello classico, ma comunque sempre un fascismo molto, molto ben riconoscibile. Gli anni 70 che si aprono adesso. Gli anni 70. Favolosi, eh? Questa era la colonna sonora di Boccaccio 70 di Fellini. Bevete più latte! Il latte fa bene! Bevete più latte! Ricordate Anita Ekberg che lo ossessionava in questa pubblicità del latte? Anni fantastici gli anni 70. Gli anni che si aprono con Italia-Germania 4-3, la partita più bella del secolo. Gli anni di Tony Manero. E non solo però. Anni pieni di sangue. Beh, prendendola alla larga. Se io fossi un idealista tranquillo in questi nostri anni 70, avrei vita facile. Perché per esempio, ho un figliolo che fa ancora il liceo e che qualche tempo fa è stato picchiato da una banda di coetanei fascisti e che per i postumi di questo bel fatto si è goduto 2 settimane di ospedale ma non è ancora guarito. Ora, se io fossi un idealista tranquillo, come vi dicevo adesso, pensando a questo mio figlio non dovrei essere privo di ottimismo. Eh sì, perché questo mio figliolo è un giovane comunista, quindi secondo me è sulla buona strada. Secondo poi, ha anche avuto abbastanza coraggio da pagare il prezzo che oggi è normalmente riconosciuto il prezzo giusto per la sua convinzione. Ma forse da paparino un po' troppo idealista e un po' troppo tranquillo, forse dimenticherei di considerare che per un papino come me che ha questa dolorosa fortuna, c'è almeno una mezza dozzina di padri di picchiatori che farebbe bene a sbattere la propria testa contro il muro pensando ai figli che si è fabbricato, sempre pensando che per ventura padri simili siano dotati di una testa da sbattere contro il muro. Ma 30 anni di governo dissennato, in cui nonni e padri dissennati hanno portato il bel paese dove adesso sta, giustificherebbero le peggiori previsioni di figlioli e di nipoti dissennatissimi negli anni avvenire. Comunque, io non sono un idealista, sono un materialista. Guardo ai fatti per quello che posso, mica ai miei desideri. Un materialista può sempre postulare che l'interesse sia ragionevole anche se l'interessato non lo è, che l'interesse sappia pensare pure se l'interessato non sa farlo. Già, ma a volte questo non basta. Io mi chiedo sempre come mai in questi nostri anni 70, tra i mitra nelle piazze e Tony Manero appunto, si manchi però di ricordare una cosa che insomma si sta profilando come inquietante. è diventata figura di massa in Italia quella del giovane disoccupato, che io prevedo possa diventare nei decenni a venire la figura giovanile tipica di massa di questo paese. Ecco, il giovane disoccupato non può non capire che soltanto un rinnovamento radicale delle nostre strutture può arrivare a permettergli puramente e semplicemente di sopravvivere. E guardate che con questa figura se ne identifica un'altra ormai, in una prospettiva mica meno disperante, quella del disoccupato parcheggiato, cioè lo studente, che in quanto tale è ancora in attesa di quella bella riforma che a suo tempo se l'aspettava suo papà. Ma comunque, parliamone adesso. L'ho presa un po' alla larga, ma ne parliamo adesso, del fantasma che tormenta i sonni della nostra borghesia in questi nostri anni 70. La violenza, la sicurezza. Ora, non è che questo fantasma sia fatto di nulla, perché una sua consistenza concreta, evidentissima, ce l'ha, come, ed è molto preoccupante. Solo che se gli togliamo il suo lenzuoletto d'obbligo a questo fantasma e guardiamo sotto di che cosa sia fatto davvero, la borghesia, se vuole, per esempio, lo sa bene di cosa è fatto. Chiediamoci un momento come mai ci si tiene così tanto a farlo girare per tutte le bocche, su tutti i quotidiani, questo fantasma della violenza e della sicurezza, magari contro quelle statistiche che lo sgonfiano, o contro quegli storici che, avendo buona memoria, si occupano di fare dei raffronti tra la nostra epoca e un'altra epoca piuttosto recente e piuttosto violenta della storia nazionale. Confronti che non sono sempre umilianti per noi degli anni 70, quando andiamo a vedere negli anni 20, 30, quanti erano gli sgozzati, i sequestrati, le violentate. Che nel capitalismo impazzito nel quale viviamo oggi, l'insieme dei rapporti sociali, dai più semplici ai più complessi, sia leggibile in termini di violenza. È normale, vi annuncio che è normale. Quello che è inaccettabile è che questa simbologia della violenza venga devoluta a copertura dei reali meccanismi economici, dei reali rapporti di classe. Così ci portano allo sgomento paralizzato nei confronti della democrazia, che è troppo permissiva, è troppo buonista, non garantisce la mia sicurezza, ci vuole una reazione. Certo, così si affermano tutte le immagini del potere autorevole perché autoritario, e trionfa in una parola la paura della libertà. La paura. La paura nella quale la nostra borghesia ci avvolge, e sta avvolgendo tutti quanti, tutta la realtà intorno. Per metà è calcolata, per l'altra metà ormai è subita con reale smarrimento, perché il sistema è fuori controllo anche per chi dovrebbe controllarlo. Il capitalismo impazzito oggi, per esempio, rende più evidenti che in passato, più trasparenti che in passato, certi nessi concreti del dominio culturale. Certe figure dell'oppressione sociale, politica. Faccia degli esempi concreti. Il giovane piccolo borghese che sognava il suo pezzetto di carta per sistemarsi all'ombra del privilegio. La giovinetta tirata su nel culto osceno del buon senso familiare. Il cattolico inibito con le sue elemosine, i suoi fioretti, le sue masturbazioni infelici. Ai miei tempi non erano mica figurette da libro di scuola. Erano realtà inquietanti che camminavano per la strada. Quelle, prima di ogni rivoluzione, ce l'ha già liquidate proprio il capitalismo impazzito stesso. Oggi noi assistiamo allo spettacolo di una borghesia pronta a tutto per proteggere il suo vacillante dominio, e che per se stessa merita la definizione che all'epoca diede Marx dell'aristocrazia fondiaria, quando diceva che nelle sue forme di guadagno, come nelle sue forme di piacere, non è altro che la riproduzione del sottoproletariato culturale preso e messo alla sommità della società borghese. E quello che ci resta da fare oggi è cercare di liberarci da sto sottoproletariato culturale che ci domina ai vertici delle banche, delle industrie, dei mezzi di comunicazione, di governo. Le conseguenze degli anni 70, degli anni di piombo sulla cultura italiana, sono state devastanti. In una parola, il terrorismo ha compromesso per sempre nel nostro paese la parola rivoluzione. A un certo punto era impossibile essere rivoluzionari senza essere anche dei terroristi, una cosa inaccettabile. Inaccettabile, e che sul piano della cultura diventava ancora più complicata, perché portare avanti quel discorso di alternativa che fino ad allora, pur tra tante difficoltà, si era sempre riusciti a costruire, diventava impossibile. Anche le parole ti si caricavano di ambiguità nella bocca. Bastava avere una posizione di contestazione qualunque e si diventava subito cattivi maestri, simpatizzanti o fiancheggiatori dei gruppi terroristi. Fare opposizione culturale in questo paese allora era impossibile senza essere presi per dei fiancheggiatori, appunto, della lotta armata e delle sue inaccoglibili direzioni. È per questo che il dibattito culturale in Italia si è fermato agli anni 70, perché il terrorismo ha aiutato l'affermazione degli elementi di conservazione culturale. Perché il terrorismo che ha segato per sempre la possibilità di sviluppo degli elementi critici. Di fatto è il terrorismo che in questo paese ha aperto l'autostrada proprio alla produzione di consumo. Il 1978. In radio. passano canzoni come questa. Sono anni in cui ci si diverte molto, gli anni della disco. E il 78 è l'anno in cui Moro viene sequestrato, condannato, giustiziato dalle Brigate Rosse. Alla radio più o meno quello che si sentiva era questo. È un fatto. La violenza ha un colore solo. Il colore del capitalismo impazzito. Da questo punto di vista, l'esplosione dei primi anni 70 per mano fascista, perché così è acclarato che è stato, fu un vero e proprio segnale d'allarme, da studiare per quello che fu, cercando di illuminarlo in ogni suo nesso. Per essere più chiaro, non possiamo certo pretendere che ogni quotidiano ci spieghi quotidianamente, magari citando Brecht, che il crimine vero non è svaligiare una banca, è fondarla. Però sarebbe civile aspettarsi una ridistribuzione dei titoli, delle colonne. Mi spiego ancora meglio. A me, che nel nostro paese ci siano persone che vanno in giro per le strade coi fucili a canne mozze, non mi piace mica per niente. Soltanto che il fatto che sempre in questo paese ci siano altre persone che ci fanno degli affari tranquillissimi, legalizzatissimi, fabbricandoli e distribuendoli quegli stessi fucili a canne mozze, beh, a me, se è possibile, questo piace ancora meno. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Boo. Nel dubbio mi compro la moto, telaio e manubrio cromato, con tanti bottoni, pistoni, accessori più strani, per far finta di essere sani, per far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando collane, sottane, cremine per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che se ne so, se cosciena te in me, la misura della mia inutilità. Boh. Per ora rimando il suicidio e faccio un bel gruppo di studio. Le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani, e si fa finta di essere sani, si fa finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India o in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in mondi lontani, per far finta di essere sani, per far finta di essere, vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano, vanno, beh, anche le cose vanno, beh, vanno, migliorano piano piano, le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, e vedo i bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani, fanno finta di essere sani, fanno finta di essere sani, fanno finta di essere sani, fanno finta di essere. Oh, e siamo giunti agli anni Ottanta, sì, anni Ottanta, you can get what you get if you want it. Che avrò detto? Beh, più o meno che adesso tocca a noi, o meglio, a voi. Ora, Questo è un momento in cui il nostro Federico è chiamato a partecipare di nuovo, del resto in realtà come volano della partecipazione vostra a casa, che credo sicuramente adesso impazzerete, sì. Allora, ai miei segnali, Federico dovrebbe leggermi quelle battute che gli ho scritto sul foglio, belle grandi, così da non avere problemi di sbagliarsi, insomma, non c'è rischio. Ora, è un comizio, eh? Anzi, è un bel discorso. L'autunno è in arrivo! Bene! Piuttosto, anche con più entusiasmo, Federico. Diciamo, l'autunno è in arrivo! Bene! Cadono le foglie! Bravo! Questa mo' è dura, però cerchiamo di fare contenere. Si riaprono le scuole! Peace! Peace, ecco, perfetto, questo è lo spirito. Siamo anche molto, è tutto in regola, mi sembra, no? Siamo anche molto tranquillizzati su alcuni punti importanti, anzi, su tutti i punti importanti. Perché? Perché per fortuna Jessica, chi si preoccupa di rassicurarci, e fa di tutto, perché fa da sé, fa per tre, fa per tutti, vede e provvede. Non c'è pericolo di guerra, la governabilità è garantita e faremo delle grandi riforme istituzionali! Bravo! Lo so che anche a casa vi siete alzati dalla sedia, ma quanti bei discorsi come questo potete ascoltare anche solo passeggiando per la strada, tantissimissimi, sì sì sì. Certo, è poi vero che questi bellissimi discorsi tendono a non accordarsi alla realtà, ma questo lo so, è una questione di puro dettaglio, eh. Saliamo l'acqua perché la bollitura è ormai, beh, perfetto. Cioè, del resto lo sapevo che un discorso per essere bellissimo mica deve accordarsi con la realtà, ma no, anzi è l'immaginazione sempre che deve superarla la realtà. Per esempio, noi abbiamo guerre guerreggiate, guerre guerreggiabili, anzi guerreggiabilissime, alcune interminabili, alcune folgoranti, pure a due passi da casa e con eccellenti prospettive di servizi a domicilio. E poi tutta una rosa di focolai interni ed esterni, però la pace non è mai stata così poco in pericolo. Noi siamo schiacciati dall'inflazione, devastati dalla disoccupazione, squalificati dalla corruzione, insidiati dal terrorismo, per non stare a parlare di cassa integrazione, posto mida terremoto, droghe leggere e pesanti, amenità di questo tipo, ma tanto con 4-5 grandissime riformissime che ci addomestichino ora e per sempre, giustizia, istituzioni, costituzioni, regolamenti, parlamenti, noi rimetteremo tutto a posto in fretta! Sapete chi diceva il povero Brecht, quello che citavo prima, il rapinatore di banche? Brecht diceva che le parole vanno sempre accordate alla realtà. Sfigato Brecht, madonna, poveraccio, idea banale, vero? Lo so, però erano altri tempi. Insomma, questo ingenuotto diceva che la proposizione, la frase che dice, ad esempio, la pioggia cade sempre dal basso verso l'alto, Boni, bene, si accorda con un'altra proposizione, per esempio quella che dice che la frutta viene sempre prima dei fiori. Fa una grinza. Qualcuno da casa telefoni se trova grammaticalmente un errore. No. Certo, poco si accorda tutto questo alla pioggia. Alla frutta? Ai fiori? Mi sa che... Ma del resto ogni filosofia governativa ce lo spiega da millenni e ce lo spiega anche ogni giorno, che tutto ciò avviene semplicemente per colpa della pioggia. Sì. Lo sappiamo che è colpa della pace se la pace sta sempre in pericolo, È colpa dei governati se non riesci mai a governarli come ti pare e ti piace. È colpa della Costituzione se non si può fare uno stupendo patto d'acciaio tra tutte le forze anticomuniste. Ah, che belli questi discorsi che non li fai con la pioggia, con i fiori, con la frutta. Tanto li fai con le parole. Le parole puoi accocchiarle benissimo come stanno tra di loro. Intanto la città aspetta, il paese aspetta e si gode questi bellissimi discorsi. Per esempio, alcuni quotidiani ci hanno comunicato recentemente, da fonti degnissime della massima fiducia governativa, che i prezzi delle merci sono bloccati. Sono concordati. Sono pattuiti i prezzi. Ma allora anche voi a casa fate parte di quella schiera di stronzetti che si infilano nei negozi, che penetrano nei mercati, che sostano di fronte alle vetrine per fare la verifica sul campo sull'aumento dei prezzi. Ma siete proprio insensibili ai discorsi e alla loro bellezza intrinseca, guarda. Tanto io ve l'assicuro, signori belli, che anche quest'anno noi ce l'avremo la pioggia che viene dal basso e la frutta prima dei fiori! Peter Parisi, cicale, cicale, sì, nana bionda, canta per me! Che meraviglia, la musa di un decennio! Decennio, decennio... disimpegno, sì. Per cui la quale cicale, cicale, cicale. anche questo lo mettiamo per il brodo. E qui andiamo avanti, eh. C'è una frittatina che è lì, che sta quasi per farsi, eh. La carne l'abbiamo pronta nella padella, caso noi ci andasse un secondo. E intanto Ether ce lo ripete, sì. Per cui la quale cicale, cicale, cicale. Ah, che parola immortale. È il 1989 quando cade il muro di Berlino. E finalmente, finalmente, fratelli, padri, madri, sorelle, amici che non si abbracciano da anni possono ricongiungersi. Io, Sanguinetti, ho grande ammirazione in questi anni Ottanta per un politico italiano che si chiama Enrico Berlinguer, il quale ha avuto il coraggio di dire che la spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre si è ormai esaurita. È l'unico leader comunista che una cosa del genere possa dirla senza che puzzi di rinuncia. In effetti, bastava farsi, negli anni Ottanta, un giro nell'Unione Sovietica per vedere come il paese fosse del tutto depoliticizzato. Certo, si era ossessionati da falci martelli, busti, ritratti, parole d'ordine, bandiere, i simboli della politica, ma si vedeva anche che, a parte gli uomini della nomenclatura, quella col K, al popolo sovietico non interessava proprio più nulla della politica. Nulla. Rotta. È l'alta catena tenebrante. E apriamo forse il decennio più strano. Forse perché è tanto vicino. Gli anni 90. Ora, non è che io mi illuda in questi nostri strani anni 90 che a salvarci possa essere la poesia. Rap dei Sanguinetti va in sottofondo. Sanguinetti e Liberovici. Solo che credo che sia di somma utilità civile, che possa essere un bene, insomma, che le cose ogni tanto riprendano il loro nome, la loro funzione, il loro significato. Cos'è la poesia? Telefonateci per dare le vostre idee, se vuoi. La poesia è al minimo, credo, un sogno fatto a cospetto della ragione. E se saremo tanto bravi da restituire alla poesia ciò che è della poesia, forse un giorno diventeremo bravissimi e sapremo dare alla politica ciò che è della politica, cioè tutto. Tutto ciò che pertiene l'orizzonte dell'umano operare. E intanto qui un esempio di poesia politica. Sì, la filastrocca DOP e DOC, didattica e descrittiva in onore e gloria di tutte le guerre chirurgiche. È di Amila Bupacià. La stuprarono i parà. Sta a sinistra, lassù in alto, fu fottuta al primo assalto. Non c'è scampo e non c'è Cristi. Forza su, cielo turisti. Sia lodata la tortura che la verga la fa dura. Quanto a questi scarabocchi, state attento che sono occhi. Qui c'è un corpo che ti vede, con la coscia, con il piede. Vede tutti, anche massù. Vede te se guardi tu. Ieri, guerra primitiva, sangue, sperma, carne viva, filo elettrico si usava, fil di ferro si portava, ma il conflitto oggi è arricchito, c'è l'uranio impoverito, per epeddi putipucci lo chiamano il DU, via i coglioni, floppi, cazzi, qua l'intelletto ce l'hanno i razzi, con CNN in alto i cuori, fuoco e fiamme a tre colori, la battaglia in tricromia, strisce, stelle e così sia, lascia stare fiche e peni, questo è tempo da iracheni, cazzi, si maccazzi, amari, pensa ai serbi, i kosovari, tocca un dì alla marsigliese, la nona oggi fa le spese. Canta, canta, bel soldato, marcia ai ritmi della NATO. Tieni dietro, stammi attento, tieni qui il divertimento. Salto, mostro tutto denti, corro al cuore degli eventi. Passo infatti ai generali, scendo giù per diagonali. Non ti fare le paure, stai fedele alle figure. Decorati mezzi busti, non c'è un cane che li frusti. Prima osserva, a mano manca, che il tuo sguardo non si stanca. Come volle chi dipinse, quello è in fascia che lo strinse. La morale ha scritta bene, che a un eroe ben si conviene. Tiene in bocca bella e buona la Madonna, giusta icona. Guerra santa, quello è un pio, macellaio del buon Dio. Guerra giusta, gonfie vele, ti massacro l'infedele. Poi su un cuore madornale, tiene sia il Papa che il Cardinale. Salto svelto a destra mano, faccio pausa, piano, piano. Questo è Duce, alle mostrine che gli fanno due freccine, la mort scritta in verticale, spiega chiara l'animale. Beh, se non sei cieco né tonto, taglio corto ogni racconto. Sopra il fiero condottiero sta lì crudo un segno nero. Quella croce lì, uncinata, è la svastica dannata. Ci fa a pezzi le persone. Ci è la vera religione. Sprofondata si è in inferno. Giù ci crepi, in sempiterno. Il fascismo maledetto ci è il demonio iperperfetto. E non serve l'esorcismo finché c'è il capitalismo. Se uno sfrutta e uno è sfruttato, il remedio non è dato. Non ci serve la pazienza se non c'è che concorrenza. Se ci regola il mercato, se ci domina il privato. Se l'umano qui è flessibile. Se ogni viscere è vendibile, noi si crepe in oppressione. Noi non si ha liberazione. Balla e canta, gira in tondo, così gira il nostro mondo. Chiudo qui la canzonetta, è già lunga e tengo fretta. Già è scoppiata nuova guerra, cari culi, giù per terra. Ci leggeresti il comunicato, Federico? Esplode Tangentopoli con il primo arresto di Mario Chiesa. Sembra si tratti, stando a quanto afferma il suo referente politico Bettino Craxi, di una mariolata. Ma i controlli incrociati e poi alla fine lo stesso Chiesa, dopo più di un mese al fresco, svelano un retroscena di concussione e corruzione a largo raggio che va a coinvolgere numerosi esponenti della politica, della finanza e dell'imprenditoria. È la prima goccia con la quale Di Pietro inizia a scavare nella pietra degli scandali. Poi la goccia diventa un'alluvione, un tornado. Seguono 25 mesi di bufere giudiziarie coinvolgendo personaggi da sempre intoccabili. 4.525 personaggi hanno trovato il carcere, 25.400 avvisi di garanzia, 10 suicidi, 1.069 parlamentari e uomini politici coinvolti. 1.069. Sentiamo un bel discorso che è del 93. È il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Signori, che pensate di insegnarci, pum pum, la strada delle grandi verità? Dovrete prima darci da mangiare, allora solo si ragionerà. O voi che a pancia piena amate l'ordine, pim pum, e vi credete d'esser chissà chi, queste parole non scordate più, prima la trippa, dopo la virtù, che sia possibile ai derelitti mangiar quel pane che oggi ci hanno i diritti. Di cosa vive l'uomo? Di cosa vive, sì, possiamo vederlo. E ruba, strozza, brucia, ammazza, e cos'altro fa? È così facile star bene al mondo se ti dimentichi d'essere un uomo. Signori, è sacrosanta verità, da pim, da pum, che l'uomo vive solo di impietà. Con gli anni 90 finisce il 900. Il Novecento, secolo, beh, complicatino. Il decorso del Novecento potrebbe così essere sintetizzato. È un secolo che si apre all'insegna di gravi conflitti tra gruppi contrapposti. È il momento in cui esplode il conflitto tra la borghesia e il proletariato e in cui anche le posizioni politiche più lontane da quella comunista o socialista sanno benissimo che è quello il territorio conflittuale di partenza. E poi evolve però il Novecento verso una situazione in cui progressivamente l'elemento della pubblicità, della seduzione, prende sempre più il posto di quella che prima era interpretata come coscienza di classe. Il Novecento si è chiuso l'altro ieri con la convinzione che le ideologie siano morte e che con la caduta del muro di Berlino e con la globalizzazione sia anche finita la storia. Io credo che questa morte dell'ideologia sia un po' una formula ideologica, una formula di seduzione, una pubblicità. Nata per accompagnare e poi aiutare la caduta definitiva del socialismo reale, cioè dell'oggetto ideologico negativo del mondo capitalistico borghese. In sostanza, che significava dire che le ideologie sono morte? Cosa significa? Significa dire una cosa sola, cioè che è morta l'ideologia marxista, con tutte quante le contraddizioni che ne derivano, perché è così che d'un tratto il mondo dei lavoratori di tutto il mondo si trova, come dire, immediatamente deprivato della sua coscienza di classe. I signori Agnelli, Elka, Berlusconi hanno forse bisogno che noi gli spieghiamo a quale classe appartengono? Sanno benissimo da soli di appartenere al mondo dei grandi affari, al mondo capitalistico borghese, sì. Si potrebbe dire, usando una formula un po' paradossale, che qua gli udici a rimanere marxisti sono stati capitalisti, sì, perché hanno perfettamente compreso e fatta propria la lezione sul superamento delle classi di Marx, ma compresa talmente bene da riuscire a lasciare, armati di essa, completamente disarmati, tutti gli uomini e le donne del fronte avverso. Diciamo che Popolo della Libertà, Lega Nord tra il 40 e il 43%, Partito Democratico e Italia dei Valori tra il 37 e il 40%. Quindi questi sono i dati principali. Per quanto riguarda il Popolo della Libertà soltanto tra il 33 e il 34,5%, e quindi è competizione per il primo partito con il Partito Democratico di Walter Veltroni, che è tra il 33,5 e il 35,5%. Per quanto riguarda invece gli altri partiti minori legati appunto a Berlusconi e a Veltroni, la Lega Nord insieme... Stanno massacrando tutte le cose che avevamo conquistato in tantissimi anni di lotte. Diciamone qualcuno. Beh, a cominciare l'articolo 18. Io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia. Come può affrontare, secondo lei, il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia, di fronte al precariato sul lavoro? Beh, intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari il figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi. Economico. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche... Ecco, quando si dice una risposta puntuale. Bene, qui l'acqua bolle. Tutte le varie pietanze sono pronte per essere cotte. Con Federico ci siamo fatti un mazzo qua sopra. Caspita, è tutto quanto prontissimo per essere mangiato, quasi tutto. Immaginiamo per un momento che adesso venisse distribuito un tortellino a testa fra gli spettatori che ci stanno ascoltando da casa. Beh, io e Federico ce l'abbiamo. Ecco, per adesso vi dico, tenete il vostro tortellino. Alla fine vi chiederemo di farne un po' quello che volete, anche tirarcelo metaforicamente addosso. 2006, Edoardo Sanguinetti rilascia la seguente dichiarazione. Non esiste coscienza di classe se non esiste odio di classe. Odio, parola desueta, parola demodè, che merita di fermarsi un momento a rifletterci. Pare abbastanza deplorevole che il 98%, e ripeto 98% è una stima per difetto, della popolazione mondiale viva oggi priva della propria coscienza di classe, cioè non sa che posto occupa nella società. Ora, che poi questo 98% sia rappresentato da proletari o sottoproletari di fatto è cosa ancora più terribile, più pericolosa. Mi pare che in questa condizione ci sia poco da essere garbati. Spero che per questo 98% di uomini e donne che abitano la Terra, per esempio, la felicità dei figli sia diventata, oggi di, un lusso da non potersi più permettere, di modo da spostare un po' la preoccupazione su alcune sofferenze dimenticate, che sono un po' quelle patite dai padri da vendicare con odio, sofferenze di cui parlava Marx, ma soprattutto quelle sofferenze che già oggi sulla propria carne questo 98% di persone che affollano il pianeta comincia a patire. Perché mi auguro una cosa così crudele? Perché ritengo che la condizione della disperazione, che, amici a casa, non coincide con la povertà,